Ecco il mio fazzoletto, signora. S'asciughi il pianto. Non c'è tormento al mondo che non abbia il suo conforto. Fra noi, parliamoci chiaro, ce ne scordiamo per egoismo. Ma che cosa ci sbatte all'inferno? Adesso lo dico, davvero. Signora, che sia condannata seduta su un fico d'India a 5 giorni di pane e acqua. Le lacrime che lei brucia non valgono la candela. Usi il suo furore per denunciare la farsa del politicante e non il sospiro galante o i maneggi dell'amore. D'amore non è morto mai nessuno, né per affetto mentito, né per vivere senza marito, né per presunto tradimento. Il mondo è un porto di mare per l'ingiustizia e i dolori, con pene di gran lunga maggiori. La sua non è che un vagito. L'orrore più grande è sfruttare, scannare la povera gente.